Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Si dice che una buona morte possa riscattare da una cattiva vita, e ci sono persone il cui epilogo è stato un atto di eroismo o di grande dignità, e questo epilogo in qualche modo ha saputo riscattarli anche magari di una vita non irreprensibile. Insomma, una bella uscita di scena fa sempre il suo effetto. La nostra protagonista di oggi ha fatto proprio questo, anche se magari involontariamente, e perché sicuramente avrebbe preferito un altro finale per la sua vita, ma non potendo scegliere ha riscattato una vita dissoluta, frivola e irresponsabile, cancellando i suoi peccati veri o presunti con un colpo di spugna, con un colpo di ghigliottina che le ha consentito un finale eclatante. La nostra protagonista di oggi è una donna controversa, chiacchieratissima ai suoi tempi e anche dopo, la regina di Francia Maria Antonietta d'Asburgo-Lorena, moglie di re Luigi XVI. Condannata dal tribunale rivoluzionario del regime del terrore durante la rivoluzione francese, decapitata in Place de la Révolution il 16 ottobre del 1793. Un colpo di lama che diventerà per lei un colpo d'ala, che l'ha trasformata da nemica dello Stato a regina martire, come dirà Napoleone Bonaparte. Una donna che non aveva se non gli onori senza il potere. Una principessa straniera, il più sacro degli ostaggi. Trascinarla dal trono al patibolo attraverso ogni sorta di oltraggi. Vi è in ciò qualcosa di peggio del regicidio di suo marito. Insomma, i casi in cui il popolo si lascia prendere la mano e commette delle nefandezze terribili sono tanti. Questo, insomma, è uno dei primi, poi ce ne sono stati parecchi. Torniamo a lei, ultima regina di Francia prima della rivoluzione. Lei diventa una delle figure storiche più popolari di tutti i tempi, offusca l'immagine del marito. La sua vita è romanzesca, si parla veramente di dissolutezza, di sfarzo eccessivo che dilapida le casse dello Stato. Si parla di amanti che le sono stati attribuiti, forse a torto, forse a ragione, di frasi a effetto che lei probabilmente non ha mai pronunciato, ma tutto questo poi passa in secondo piano di fronte a una morte drammatica che la trasforma in un'eroina e una protagonista di libri, dipinti, di sceneggiati, serie televisive, perfino cartoni animati. Una vera star che ha attraversato i secoli rimanendo viva nella memoria di tutti. Maria Antonia Giuseppa Giovanna d'Asburgo-Lorena nasce a Vienna il 2 novembre del 1755, la penultima dei 16 figli di Maria Teresa d'Austria e di Francesco Stefano di Lorena, imperatore del Sacro Romano Impero con il nome di Francesco I. Alla nascita viene insignita del titolo di arciduchessa d'Austria e, nonostante l'alto rango, l'infanzia è felice, diversa da quella di molti figli di re costretti al protocollo, perché l'imperatrice Maria Teresa vuole che i figli crescano allegri, spontanei e non soffocati dall'etichetta, e così Maria Antonietta viene su, diciamo, viziata. A 12 anni ancora non sa scrivere e non sa neanche parlare bene le lingue di corte, il tedesco e il francese, conosce molto bene l'italiano perché il suo maestro personale è Pietro Metastasio, il grande drammaturgo che vive l'ultima parte della sua vita proprio lì alla corte viennese. Metastasio non è l'unico insegnante illustre di Maria Antonietta. Pensate che il suo maestro di musica era Christoph Gluck, il famoso operettista tedesco, massimo esponente del cosiddetto classicismo viennese, che le insegna il bel canto. Maria Antonietta è bellissima, bionda, con gli occhi blu, bianchissima, che è un segno di nobiltà e di purezza, circondata da personaggi di grande spessore, e quindi, insomma, acquisisce una serie di informazioni importanti, diventa una bambina e poi un adolescente di una certa cultura. Suona l'arpa, eccelle nella danza, si muove con grazia e raffinatezza. L'abate Vermont, suo istitutore, ne parla in termini lusinghieri, però sottolinea anche i suoi difetti. Ha un volto affascinante, unisce la grazia del portamento. Avrà tutte le doti che si possono desiderare per una grande principessa. Disgraziatamente, il suo ingegno non è stato abituato a nessuna concentrazione. Un po' di pigrizia e molta leggerezza mi hanno reso difficile istruirla. Non riuscivo a farle approfondire nessun argomento, benché sentissi che ne sarebbe stata capace. Non si poteva applicare la sua mente se non divertendola. Ecco che si delinea un aspetto distintivo del carattere di Maria Antonietta, lo si intuisce da quando è bambina. È un ingegno unito a una ripugnanza a pensare, uno sfuggire a ogni discussione seria, una certa superficialità, diciamo che insomma mi vengono in mente dei fan di qualcuno ma non lo dico. Sarà la storia a trasformarla in una eroina involontaria, a decidere per lei a farla grande al pari del suo destino. Il falco e il gabbiano. Quando Maria Antonietta ha 10 anni deve sopportare un dolore terribile, l'adorato padre, l'imperatore Francesco, muore per un colpo apoplettico e tutti lo piangono perché è stato un grande sovrano, un padre affettuoso, un ottimo marito. La moglie, l'imperatrice Maria Teresa d'Austria, porterà lutto per tutta la sua vita. L'imperatrice nomina corregente il figlio maggiore Giuseppe, che ha poco più di 20 anni, e inizia una politica di ampliamento, di potenziamento dell'impero grazie a alleanze strategiche che vengono suggellate, come si faceva in quegli anni, attraverso dei matrimoni stabiliti a tavolino con grande attenzione. Così le figlie più grandi vanno in sposa una a Ferdinando IV, re di Napoli delle due Sicilie, un'altra a Ferdinando di Borbone, duca di Parma, Piacenza e Guastalla. Quello di Maria Antonietta è ovviamente pedina politica nelle mani della madre, è il matrimonio più strategico di tutti, perché per suggellare l'alleanza con la Francia, storica nemica dell'Austria, Maria Antonietta viene data in sposa al delfino di Francia Luigi Augusto, il futuro Luigi XVI. Gli Asburgo e i Borboni, nemici giurati da sempre, si mutano per l'eternità in consanguinei. L'importanza strategica di queste nozze è tale che le trattative vanno avanti per oltre 3 anni. Alla fine il giorno arriva. Maria Antonietta, che a 15 anni ha visto il delfino solo in ritratto, e quello che incontra quando è arrivata in Francia non è esattamente quello che si aspettava. Dimenticando il collo corto e largo, il delfino a fronte sfuggente, curva decisa del naso, labbra carnose, mento grasso, un profilo simpatico. Occhi smorti bovini dalle palpebre grevi, perché è molto miope e senza occhialetto non riconosce nessuno a 3 passi di distanza. Anche il portamento del goffo Luigi non è fortunato. Precocemente pingue, maldestro, incede come un contadino dietro l'aratro. Non sa ballare e inciampa ad ogni passo nella sua spada. Il poveretto è perfettamente conscio della sua importunità e perciò è sempre imbarazzato. Invece che il delfino di Francia, sembra un povero tanghero. Eh sì, la delusione deve essere stata forte. Ai tempi non c'era Photoshop, ma c'erano dei ritrattisti molto compiacenti. Il biografo austriaco Stefan Zweig, nel suo libro Maria Antonietta, una vita involontariamente eroica, descrive così il Luigi XVI, che a quei tempi ha 16 anni. È una descrizione, quella che abbiamo appena sentito, che ci fa pensare a un giovane, insomma, non certo affascinante. Maria Antonietta ne rimane molto delusa, ma ovviamente non c'è nulla da fare, lo deve sposare per forza. Le nozze hanno luogo il 16 maggio del 1770 a Versailles, e immaginate che tipo di nozze, dalle toilette delle dame, dei cavalieri, alle portate luculliane, allo sfarzo di carrozze, all'estimento di saloni, tutto è esagerato. E pensate che il delfino indossa sul cappello di nozze il grande Pitt, un diamante con la maggior caratura dell'epoca, 141 carati, e oggi lo si può ammirare al Louvre, e lui se l'era messo sul cappello. Con queste nozze Maria Antonietta diventa delfina di Francia, cioè futura regina. Già, perché il re Luigi XV, quello di dopo di me il diluvio, quello con le amanti più intriganti della storia, Madame de Pompadour, e poi la terribile Dubarry. Lui è il nonno del delfino, non il padre, perché il padre, ovviamente Luigi anche lui, muore giovane prima di poter salire al trono. Quindi il delfino a 11 anni diventa ufficialmente erede al trono di Francia. Insomma, la giovanissima, leggiadra, leggera Maria Antonietta arriva a Versailles da futura regina, e per i francesi è una nemica perché è austriaca. Il popolo non può capire le alleanze strategiche, è stato educato al fatto che gli austriaci sono i nemici, e il popolo non cambia idea, tanto che per molto tempo viene chiamato l'Autrichien, che è un gioco di parole perché chien in francese vuol dire cane, un po' come dire l'austriacagna. Maria Antonietta è abituata alla corte di Vienna, ha passato la sua infanzia nel castello di Schönbrunn con i fratelli, le sorelle, in un clima disteso, allegro, con un'etichetta non particolarmente rigida, senza intrighi di corte, e arriva a Versailles, il luogo degli intrighi per eccellenza, dove non ci si serve dell'etichetta, ma la si serve come una divinità. Non si vive per vivere, ma per rappresentare. Gli sguardi curiosi ovviamente convergono tutti su di lei, la bionda arciduchessa austriaca destinata al ruolo di regina. L'educazione della principessa spetta alle tre zie, le figlie di Luigi XV, le tre vecchie zitte, le stantie zelanti e maligne, Adelaide, Vittoria e Sofia, una specie di sorellastre di Cenerentola che fingono affetto per lei, ma che in realtà sono ipocrite, sono bugiarde, che tramano alle sue spalle. Però Maria Antonietta sarà anche una quindicenne ribelle, sarà sicuramente una viziata, un indolente, però odia la menzogna, le cattiverie, i sotterfugi. Fondamentalmente è una persona positiva, è buona, è sincera, e quindi si sottrae a questa influenza nefasta di queste tre zie molto sgradevoli. Tra l'altro dovrebbe avere altri problemi, perché il suo legittimo sposo, il delfino, non dimostra particolare interesse nei suoi confronti, e il matrimonio inizialmente non viene consumato. Ma non è che Luigi sia gay o impotente, è afflitto da un piccolo problemino fisico, la fimosi, insomma difficoltà ad avere rapporti sessuali per questioni proprio tecniche, di pelle, insomma non posso farvi un disegno, ma è questo. E lui risolve il problema dedicandosi alla caccia, alla meccanica, e in realtà la fimosi è una sciocchezza, si elimina con una specie di circoncisione, un intervento chirurgico anche a quei tempi facilissimo, ma lui ha paura e non vuole farsi operare. Viene già comunque incredibile che uno, per non fare una piccola operazioncina, rinunci a tutto quello che l'operazione comporta, compreso il fatto di avere una moglie molto bella, cosa che non capitava sempre. Comunque il problema si fa grave, perché i reali devono dar conto della consumazione del matrimonio per motivi di interesse politico e di successione, non è un problema privato. Questo giovane inceppato nella vita privata viene a mancare di ogni forza anche nella vita pubblica. Non sa farsi avanti, né mostrare e tantomeno imporre il proprio volere. Quando ha inseguito per ore un cinghiale sul fumante destriero, quando ha stancato fino all'esaurimento i muscoli in una fucina, raggiunge la compensazione fra energie fisiche e deficienze segrete. Si compiace di servire Vulcano perché non riesce a servire Venere. E questa situazione è incresciosa, si cristallizza senza soluzione, va avanti diversi anni e diventa ancora più spinosa quando il 10 maggio del 1774 il sovrano Luigi XV muore di vaiolo. Insomma, il delfino e la delfina diventano re e regina di Francia. Maria Antonietta sale sul trono di una delle grandi superpotenze dell'epoca, ancora vergine e senza la minima prospettiva di dare un erede alla corona. Il falco e il gabbiano. La nostra protagonista di oggi è Maria Antonietta d'Asburgo-Lorena, moglie di Luigi XVI, regina dei francesi, una delle donne più famose e controverse della storia, definita frivola, irresponsabile, assetata di lusso, dissipatrice, disprezzata alla corte di Francia perché straniera, con i nobili che la chiamano l'austriaca, è una che non si sentirà mai veramente a casa a Parigi. Però sarà la sua morte sulla ghigliottina, una morte involontariamente eroica che porrà fine a una vita considerata insulsa, sarà quella morte a regalarle un respiro di gloria e di dignità e per consegnarla alla storia per l'eternità. Nel nostro racconto siamo arrivati al 1774, l'anno in cui muore Luigi XV, lascia erede al trono suo nipote che diventa Luigi XVI e la consorte Maria Antonietta, che ha 19 anni e la regina di Francia, però è una donna ancora ignara delle gioie dell'amore, insomma è vergine. Il matrimonio tra lei e Luigi non è stato ancora consumato a causa di un problemino che affligge il re, una banale fimosi. E lui ha il terrore di farsi togliere quelle piccole protuberanze di pelle e quindi evita i rapporti sessuali. È una situazione terribile che si protrae per molti anni, che diventa un problema di Stato, perché stiamo parlando dei sovrani di Francia che devono dare un erede alla nazione. Per loro due non è così grave, il sesso non è tra i loro primi pensieri, lui si dedica alla caccia, alla meccanica, mentre lei trova alla corte francese tutti i diversivi più stravaganti e costosi che ci si possa immaginare. Insomma, non vuole pensare e si diverte e può farlo. Ogni pensiero che non balzi improvviso è per lei una fatica, mentre la sua natura capricciosamente indolente odia ogni genere di sforzo mentale. Vuole soltanto il gioco, la leggerezza in tutto e per tutto, evitando ogni vero lavoro. Maria Antonietta chiacchiera soltanto con la bocca, mai con la testa. Nulla dice, nulla pensa, nulla legge. Odia le pratiche di governo, le cose serie che esigono pazienza e attenzione. Chiacchiera con la bocca, non con la testa, vuole soltanto gioco, leggerezza, non sa concentrarsi, insomma un quadretto che, ahimè, oggi incontriamo molto spesso, ma in questo caso stiamo parlando della regina di Francia, dei francesi, è un contrasto straordinario, lui goffo, lei elegante, lui pesante, lei spumeggiante, lui bigotto, lei mondana, e quindi potrebbe essere un matrimonio litigioso tenuto insieme a fatica. Invece no, i due evitano attriti e tensioni, lui perché ha un'ignavia fisica, lei ha una tale pigrizia dell'anima che non è neanche capace di fare una discussione. Lui le riconosce una superiorità intellettuale, lei lo tratta come si tratterebbe che sono un cane San Bernardo, ogni tanto gli fa una carezza e tutto si sistema. Ma cosa vuole veramente Maria Antonietta? Tutti parlano dei sovrani, lui viene definito un pusillanime, anche se non si sa neanche se è un vero uomo. Lei passa per una prostituta a cui vengono attribuiti 1000 amanti, in realtà sono tutte menzogne perché Maria Antonietta è ancora vergine. La verità noi la conosciamo attraverso un carteggio molto fitto che lei intrattiene con la madre Maria Teresa d'Austria. In queste lettere si legge quello che lei fa quotidianamente e si capisce cosa le interessi veramente: divertirsi, circondarsi di cose belle, sperperare i soldi della corona, svuotare le casse dello Stato. E non c'è perversione sessuale, intrigo, desiderio di potere. Lei si diverte così, è contenta di essersi accostata al grandioso compito che la storia le affida, cioè essere la sovrana di Francia, perché lei vede il fatto di essere sovrana come un modo piacevole per divertirsi e passare delle belle giornate. La madre, Maria Teresa d'Austria, è un po' più lungimirante e comincia a preoccuparsi. Diletta figlia, renderci simpatici agli altri è l'unico divertimento e l'unica felicità della nostra regale condizione. È una dote di cui ti eri impadronita così perfettamente. Non perderla. Non la devi alla tua bellezza, non la devi né ai tuoi talenti né alla tua cultura. Sai bene di non avere né gli uni né l'altra. La devi al tuo cuore gentile, alla tua franchezza, alla tua amabilità. Attenta. Stai esagerando, stai offrendo di te un'immagine errata. Eh sì, la regina d'Austria è molto saggia, è una donna che sa di politica, capisce, prevede gli eventi futuri, comprende che il comportamento della figlia è eccessivo, che presto scatenerà tutti i veleni della corte francese, che le è ostile già per motivi, come dire, etnici. Il popolo oltretutto è pronto alla ribellione e sono stati che stanno diventando delle polveriere, ma lei, Toniette, come la chiama affettuosamente la madre, non capisce, non ascolta i consigli. Lì è la regina del rococò, è la sovrana dell'artificio, al centro di una scena e di una schiera di nobili divertiti che la imitano, la sfruttano, la ossequiano, pronti a colpirla nel momento in cui il vento dovesse girare a suo sfavore. Per il momento la regina se la gode al centro del bel mondo e vive la beatitudine del suo tempo, passa da una festa all'altra. Le sue giornate si svolgono tra la scelta del vestito, della conciatura, dei gioielli da indossare. E insomma, però, alla fine, per mettere a posto le cose, interviene il fratello maggiore, Giuseppe, che arriva a Versailles nell'aprile del 777 con tre scopi precisi: redarguire la sorella, convincere il re finalmente a operarsi e a dare il via a un'attività sessuale e rinsaldare l'alleanza tra Francia e Austria. Cara madre, avete ragione in tutto. La regina, nostra sorella, è molto graziosa, ma ha la testa vuota. Spreca la sua giornata passando da una dissipazione all'altra. Non si lascia frenare da nessuna norma dell'etichetta e tutte le persone che la circondano la spronano a questa frenesia. Riguardo alla delicata questione che voi ben conoscete, posso dire che Maria Antonietta e suo marito sono due perfetti pasticcioni. Sì, Giuseppe scrive così, molto sconfortato, scrive così alla madre. Poi finalmente ottiene qualcosa di molto importante, convince il cognato a farsi togliere questa benedetta protuberanza che gli impedisce di riprodursi. Insomma, dopo 7 anni, finalmente il matrimonio viene consumato. La data fatidica è il 25 agosto del 1777, cioè la data della prima copula. E pochi mesi dopo Maria Antonietta è finalmente incinta, è talmente felice che annuncia a suo modo la paternità al marito, gli si pianta di fronte e gli dice: sire, vengo a lagnarmi di un vostro suddito che ha l'ardire di darmi calci nel ventre. Spiritosona, lui non capisce ovviamente, ci arriva in un secondo momento, però è teneramente soddisfatto. Finalmente la cosa, come dire, la ridimensiona, perché comincia a accantonare le spese assurde, si concentra sulla sua gravidanza. Così nel 778 nasce Maria Teresa e poi nell'81 Luigi Giuseppe, nell'85 Luigi Carlo e nell'86 Sofia Elena, e sono 4 figli. In Francia la situazione sta degenerando e intanto le guerre avevano già prosciugato in parte le casse dello Stato e Maria Antonietta ha, come dire, dato il colpo di grazia. La situazione sta precipitando, Luigi XVI si dà da fare, convoca l'assemblea dei notabili, assemblea che viene riconvocata dopo 160 anni di inattività. Vuole attuare delle riforme per calmare la crisi, ma le cose precipitano ulteriormente. Si arriva alla convocazione degli Stati Generali, che sono l'assemblea del popolo francese. E qua nasce quel processo che porterà alla rivoluzione. Maria Antonietta non vuole guardare, non capisce, non le interessa, non vede il dramma della situazione, prosegue tranquillamente la sua vita allegra nella sua deliziosa dépendance, la Petit Trianon. E in questo periodo, siamo nel 1785, c'è un evento destinato a essere ricordato negli anni perché diede lo spunto a molti romanzieri, in particolare Alessandro Dumas padre, un evento passato alla storia come l'affare della collana della regina. Eh sì, perché la regina viene coinvolta suo malgrado in una vicenda dai risvolti misteriosi. viene richiesto alle casse dello Stato, che erano già in grave deficit, il pagamento di una collana di diamanti dal costo esorbitante che lei avrebbe ordinato ai famosi gioiellieri di corte Baumer e Bassange. E lei in realtà quella collana non l'ha mai ordinata. Alla fine si scoprirà che era una truffa della contessa Jean Valois de la Motte. Intanto però la regina era già stata coinvolta agli occhi del popolo, lei che già non era una santa appare colpevole. Insomma, inizia un vero e proprio linciaggio mediatico nei confronti di Maria Antonietta. E se nel Rinascimento si colpiva con i pugnali e i veleni, se oggi si colpisce con gli avvisi di garanzia, nel Settecento si distrugge una persona in maniera più sottile, con la penna, e il nemico viene messo in ridicolo, diventa un capro espiatorio, diventa la donna più odiata di Francia, le vengono messe in bocca parole mai dette, come quella famosa: si lamentano che non hanno pane, che mangino brioche. È sicuramente una falsità, però fa capire qual era il clima attorno alla regina. E poi le cose vanno come sappiamo. Il 14 luglio 1789 c'è la presa della Bastiglia, cambio assoluto e definitivo nella storia del paese. I reali tentano di scappare da Parigi, è il famoso episodio passato alla storia come la fuga di Varenne, poi però il corteo viene intercettato, riportato nella capitale, e da quel momento parte la terribile macchina che porta all'uccisione di un numero impressionante di quelli che vengono chiamati anche allora i controrivoluzionari, e viene decretata la fine della monarchia, la nascita della Repubblica il 21 gennaio del 1793. Luigi XVI viene ghigliottinato. Maria Antonietta intanto è accusata di ogni nefandezza, viene accusata di avere manipolato il re per favorire l'Austria, di avere tramato contro la Repubblica, di essere una donna iniqua, lesbica, fornicatrice, incestuosa, insomma le si dice qualsiasi cosa, simbolo della monarchia corrotta, responsabile di avere affossato il paese, viene processata per alto tradimento. È ormai risaputo che come Messalina, Brunilde, Fredegonda e Caterina de' Medici, anch'esse conosciute come donne infami del passato, Maria Antonietta, vedova di Luigi Capeto, durante la sua lunga permanenza in Francia, è stata un flagello e una vampira assetata del sangue del popolo francese. È noto altresì che ella ha avuto contatti politici con l'individuo che porta il nome di re di Boemia e di Ungheria. Ha intrattenuto una fitta corrispondenza segreta con potenze straniere in netto contrasto con gli interessi nazionali della Francia. Ha inviato milioni all'imperatore per aiutarlo a proseguire la guerra contro la Repubblica e che in combutta con i fratelli del defunto re ha dissanguato le finanze della Francia. Non si sfugge a queste accuse, probabilmente false in gran parte, ma non si torna indietro. Il 16 ottobre 1793 Maria Antonietta viene ghigliottinata in Place de la Révolution, un colpo di lama che si trasforma in un incredibile colpo d'ala, perché lei muore con una dignità inaspettata, si riscatta da una esistenza tutto sommato insignificante. Insomma, la rivoluzione le consente di esternare un coraggio, un eroismo che neanche lei sospettava di avere, e le regala un'eternità che la strappa all'oblio, nel quale sono finite migliaia di regine che la storia non ha voluto mettere alla prova. Nello stesso modo, dal trono al patibolo, dalla carrozza dorata al carretto dei condannati, dalla gloria ai fasti e dagli onori all'abisso, e Maria Antonietta diventa veramente la regina di Francia quando il boia le strappa dal capo la corona. Eh sì, un colpo d'ala finale per una donna che, perfetto specchio dei suoi tempi, aveva fatto dell'esteriorità la sua cifra stilistica, e noi speriamo che le donne oggi siano il più distante possibile da questo tipo di abisso di vacuità. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, venite sul nostro sito, venite a trovarmi sui miei e sui nostri social, insomma lo sapete, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani.